Fermati, no, te lo devo dire, ce l'ho sulla punta dei polmoni. Io ti odio a te, hai capito? È un fatto di pelle. Intente epidermico? No, di pelle, di rottura di pelle. Ma hai rotto le pelle, va bene? Lascialo perdere. Ah, mi sento meglio, ce l'ho liberata adesso. Ausiliario della sosta, la tua faccia mi disgusta, credo giusta quella multa applicata con criterio, ma il salario di un precario non accetta questo sgarro. Fatta apposta azione losca, con lo scopo che la busta con cui mangi si ingrandisca, percepisco che la tresca manovrata con la testa della ciurma renda giusta la protesta verso mossa disonesta. Sei l'opposto del buon gusto, in contrasto con l'onesto. Ma comunque sono buono e con rabbia ti capisco, In fin dei conti sei diretto da quell'altro bell'imbusto che si crede mastro lindo per un fischio napaletto. Fermati, no, te lo devo dire, ce l'ho sulla punta dei polmoni. Io ti odio, hai capito? È un fatto di pelle. Intente epidermico? No, di pelle, di rottura di pelle. Ma hai rotto le pelle, va bene? Ma la smetta, uomo multa, quando passa così in fretta con la sua motocicletta, come fosse Barzelletta, qui la gente si diletta nel vedere la marionetta di un sistema che ci prende. Vigile, sei abile nel dare multe agli altri, non dare multe al ma se il falabile confine, il falabile pazienza, un indomabile intolleranza. Il miraggio di un parcheggio è un segnale che scoraggia, ma ancor peggio è quando assaggio l'ingranaggio truffaldino messo in atto da voi altri verso l'umile città. Perciò un consiglio: vigilanza, tolleranza, più coscienza, intelligenza. Sono armi con le quali possiamo fare. Più rispetto da ambo parti, meno spazio per i torti. Sono carte da giocare perché i diritti non siano morti. Quindi accetta questa molta interferenza, voglio per l'imbroglio perpetrato. Ho scalato 10 punti dal libretto d'amicizia, ma se il tuo corso di ripiglio sarà fatto con saggezza, non orremo rendere il rapporto di correttezza. Fermati, no, te lo devo dire, ce l'ho sulla punta dei polmoni. Io ti odio, hai capito? È un fatto di pelle. Intente epidermico? No, di pelle, di rottura di pelle. Ma hai rotto le pelle!